come te col mio lavoro in culo. Tra qualcuno se ne va, cambia un'altra storia. Io vivo come te, col naso sempre freddo. Adesso scrivo un po' di più e non perdermi mai. Sono sempre fuori, yeah. Io vivo come te, prendo sempre tempo. Adesso bevo un